Ma potremmo dimenticare tra i poeti e i musicisti friulani scomparsi i nomi e l'opera di Emilio Nardini e di Titta Marzuttini. Eccoli a voi, il poeta e il musicista in un delicato componimento. Paveute che tu svolis tal soreli di fevrar, parlaviarte tu luciolis, ma doman torne l'unviar. Bambinute, no fissati tal prignassi de passion, disperate al polassati, alle un flor pur di stagion. Sotto l'insegna della delicatezza è da porre anche una villotta il cui testo è dovuto a quel fervido ingegno che fu Bindo Chiurlo. Una villotta che, su musica di Zardini, paragona le lucciole a lumicini che hanno smarrito la via, a piccole anime vaganti al margine dei sentieri. Quand che van gli slusignuti svongolante il slusignan, par che il monte gnoccidine al sisted insumian. L'usoruz piarduz di strade, animutis fur di troi, sotto il voli degli stelis e gli slagrimis dai poi. Le lucciole brillano della loro effimera luce di notte e l'accendersi e spegnersi del loro vago lume sembra scandire le intermittenze del cuore quando si torna a casa nel buio. E la casa è scura nelle tenebre, come dice una corata villotta, di cui sono autori gli stessi Chiurlo e Giardini. Buine sere, chiase scure i miei dei chiams. Io ti spieti in te criure, che ti illumini i lams. Batin undis, batin dodis, il burlaz s'ingropa in cil. No vuacadis pe campagne, e pe vile non si vi. Si viladis vie pe vile, quand colevia fa l'amor, e vuacadis pe campagne, e vosadis dal sgiarnor. Buine sere, chiase scure dal mio cur, cui siei picciu iei da dentri, e io ca, beson tal scur. Approdati alle rive dell'eternità, tutti nella pace del Signore, i poeti e i musicisti dell'odierna trasmissione. Essi hanno onorato il Friuli con i canti sgorganti dalla loro anima. Ed è con il canto che idealmente tutti li riunisce e li riassume che oggi noi ci congediamo da voi, cari fratelli lontani. Il canto di altri due friulani scomparsi, il poeta Ugo Pellis e il musicista Augusto Cesare Seghizzi, in cui echeggia con l'affermazione dell'orgoglio della nostra stirpe il grido di Viva il Friuli. I royuz che businant van sburiti u pes montagnis, duc i vins che ciulant van pei quei a gran bugadis, e i bus quarts che mugulant van te basse a plan peslanis, duc nus vidin, o se stradis, Es furlans, sì, sin furlans, da Lisunza alla Livente e da Chiarnia infin al mar. Vive il Friul! Non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non vedi, non v Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 55esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Ermete Pellizzari e Dino Menichini. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro di San Lorenzo di Sedeliano, diretto dal maestro Leandro Plenizio.